Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È stata una sua decisione personale che ha smentito l'indicazione del gruppo, del gruppo consigliare della Lega, e questo qualche problema lo comporta, perché chi è chiamato a rappresentare la Lega negli organismi come l'ufficio di presidenza della regione deve attenersi alle disposizioni che vengono date dal gruppo, altrimenti non rappresenta più il gruppo, rappresenta se stesso, libero di pensare quello che vuole, ma ci sono delle regole, altrimenti se non sei d'accordo lo dici e ti fai da parte. A chi si riferiva, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia? A Fabrizio Cecchetti, che è il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia, leghista, anche lui, ma col suo voto praticamente unito a quello di PD e Movimento 5 Stelle ha permesso che fosse dato il patrocinio della Regione Lombardia a tutte le iniziative del Pride, del Gay Pride a giugno a Milano. Questo ha fatto imbufalire Maroni e una parte della Lega, perché invece Fabrizio Cecchetti risponde: io rivendico la libertà di scelta su certi temi, molti dei giovani nella Lega sono con me, dice, la società è più avanti della classe politica. In Irlanda fino a 20 anni fa l'omosessualità era reato, oggi si vota per i matrimoni gay. Questa è una parte di politica, ma sono i dissidi all'interno dei partiti, ormai ci siamo abituati, insomma, da vari punti di vista, e ne abbiamo parlato lungamente anche quest'anno nelle varie puntate di Effetto Notte. Oggi però intanto resteremo in par condicio e vediamo se dalla TV e dai talk show riusciamo ad alzare ogni tanto il volume sia su Renzi sia su Berlusconi, vediamo se riusciamo a fare un po' questo gioco di ping pong. Dopodiché parleremo anche della situazione economica italiana, che emerge dall'assemblea di Confindustria che oggi si è tenuta all'Expo di Milano, simbolicamente, insomma, questa ambientazione era voluta anche perché Squinzi ha detto questa è una delle cose più belle dell'ultima stagione della politica, della società, dell'economia italiana. Poi sempre per quanto riguarda l'economia, anche quella che emerge dalla visita di Renzi agli stabilimenti Fiat di Melfi, e poi torneremo sullo scandalo della FIFA, perché vengono fuori cose nuove. Adesso c'è questo conflitto forte tra Blatter, presidente della FIFA, e il presidente dell'UEFA, che invece appunto è il calcio europeo, Platini, che chiede di dimettersi, con Putin invece che difende Blatter. Poi ricostruiremo un po' tutte le ultime novità e naturalmente ci soffermeremo anche su questa bruttissima notizia di cronaca nera di cui già vi davo accenno ieri, di questo incidente a Roma causato da dei nomadi con una macchina che per sfuggire all'alta della polizia ha ucciso una donna e ha causato vari feriti anche gravi. Si ritorna quindi sul problema della sicurezza stradale, dei pirati della strada, del disegno di legge riguardo all'omicidio stradale. Anche su questo torneremo, capiremo a che punto è anche il percorso di questo disegno di legge. Intanto direi di solo sto per riassumervi la giornata, di guardare sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure di mandarli al 349-238-6666 su vari argomenti della giornata. Lo scandalo FIFA, dunque, Blatter sotto assedio, dice non posso controllare tutto, Platini gli chiede di dimettersi, ma Putin lo difende. Il grave incidente a Roma, il padre del 17enne ricercato dice guidavo io, ero ubriaco, ma ci sono delle versioni contrastanti. L'assemblea di Confindustria, Squinzi dice qualcosa si muove, ma chiede al governo di non perdere la determinazione. Renzi e la Fiat di Melfi incontra Marchionne e gli operai e dichiara il lavoro non si difende nei talk ma nelle fabbriche. Grecia, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde, avverte l'uscita dall'euro per la Grecia è una possibilità, l'accordo è lontano. Libia, l'allarme dell'ONU, senza accordo vincerà l'ISIS. E poi per lo sport, Giro d'Italia, il francese Gilbert Fabrice a Verbania, la maglia rosa Contador consolida il primato, e il calcio femminile sbarca sul videogioco FIFA 2016. Partiamo quindi da questo enorme scandalo che coinvolge la FIFA, la vigilia tra l'altro del voto per il rinnovo della presidenza della stessa FIFA, che dovrebbe essere domani se non sarà rimandato. Continua l'assedio al presidente Blatter affinché dia le dimissioni, ma emerge uno scontro anche tra Putin e gli Stati Uniti. Sì, buonasera, Michel Platini scende in campo e attacca direttamente Joseph Blatter. Aujourd'hui, je viens te demander de quitter la FIFA, de démissionner de la FIFA, de partir de la FIFA. L'ho incontrato e gli ho detto di andarsene, di dimettersi dalla presidenza della FIFA, perché il danno d'immagine è incalcolabile. Così il numero uno dell'UEFA, dopo l'incontro faccia a faccia con quel Blatter che domani sarà candidato per il quinto mandato consecutivo come presidente della FIFA, ma che ora travolto dallo scandalo che ben conosciamo. Platini, numero uno dell'UEFA, appunto, ha sottolineato che almeno 45 federazioni nazionali europee voteranno per il principe Hussein di Giordania, rivale di Blatter nella corsa alla presidenza. Tra queste federazioni anche la Federcalcio italiana, che ha diffuso una nota a firma del presidente Tavecchio in cui ha reso esplicito il voto per Hussein di Giordania, appunto il grande rivale di Blatter. Ma lo scandalo FIFA assume dimensioni politiche. Oggi è stato il premier inglese Cameron a chiedere le dimissioni di Blatter. Blatter difeso a spada tratta invece da quel Vladimir Putin che al plenipotenziario della FIFA ha legato a doppio filo il destino del Mondiale di Russia 2018. Per il momento è tutto. Grazie a Dario Ricci. E poi adesso passiamo al grave incidente a Roma con l'auto che è piombata sulla folla, che ha provocato la morte di una donna, una filippina di 44 anni, e diversi feriti, di cui alcuni gravi. Intanto in città cresce la tensione. Sono stati identificati e per le forze dell'ordine è questione di ore l'arresto dei due rom ricercati da ieri sera nella capitale. Uno dei due è un minorenne e sarebbe il marito della 17enne già fermata e accusata ora di concorso in omicidio volontario. L'altro fuggitivo è invece un maggiorenne, sarebbe stato lui a guidare l'auto che in una folle corsa, nel tentativo di seminare una volante della polizia, ieri sera ha travolto alcuni passanti nel quartiere di Boccea, uccidendo una filippina di 44 anni e ferendo altre 8 persone. Mentre la caccia all'uomo va avanti, fra i residenti della zona sale intanto la tensione. Se uno viene qui a lavoro e si comporta bene come tutti quanti, va bene. Il problema è che loro vanno a rubano. Che bisogna fare con i campi nomadi secondo te? Io brucerei tutti. Mi dispiace per quella povera signora filippina che tornava dal lavoro, una collaboratrice domestica, persone che fanno sacrifici e hanno trovato sta beffa di sta morte assurda. Nel quartiere è stata anche organizzata una fiaccolata. I familiari dei due ricercati hanno chiesto perdono alle vittime dell'incidente, ma la polizia ha rafforzato i controlli attorno ai campi nomadi della zona, temendo ritorsioni dopo le molte minacce apparse sui social network. Che la città eviti le trappole di chi vuole strumentalizzare la vicenda e invece l'appello lanciato dal sindaco Marino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E però, come vi dicevo, su questa vicenda, sulla quale torneremo dopo, ci sono versioni contrastanti, perché poi in serata il padre di questo ragazzo 17enne ricercato dice: no, c'ero io alla guida, ero completamente ubriaco, avevo bevuto parecchio, lui non c'era neanche in macchina, quindi bisognerà capire insomma come è andata veramente la vicenda. Siamo all'assemblea di Confindustria che si è tenuta oggi all'Expo. Squinzi ha elencato diverse iniziative positive del governo e ha chiesto anche al governo di non perdere la determinazione. C'è stata poi una stretta di mano con la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, che però certamente non è servita, non è bastata a unificare i punti di vista. Tra poco ce ne occupiamo. Grande assente a questa assemblea annuale di Confindustria era il presidente del Consiglio Matteo Renzi, in visita allo stabilimento Fiat Chrysler di Melfi. Matteo Renzi rivendica l'operato del governo in tema di lavoro. L'occasione, la visita allo stabilimento Fiat Chrysler di Melfi, alla presenza dell'amministratore delegato Sergio Marchionne e del presidente John Elkann. Per difendere il lavoro non si va ai talk show, si creano le fabbriche, la battuta del premier riferita al leader della FIOM Landini. Io credo che l'Italia abbia bisogno di donne e uomini che creano lavoro. E per difendere il lavoro non si va ai talk show del martedì sera a fare grandi slogan ideologici. Per difendere il lavoro si creano le fabbriche, si creano le condizioni perché l'Italia torni a correre. Sul tema occupazione, Marchionne da parte sua promuove le riforme del governo. La ricetta giusta, dice, e conferma altre 1000 assunzioni nel comprensorio di Melfi entro l'anno. Aspettiamo buone notizie per Cassino, aggiunge Renzi, non vedo l'ora di potermi comprare un Alfa Romeo. Dal premier nessun accenno al gelo con il candidato governatore Michele Emiliano, le polemiche con il PD locale restano sullo sfondo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo ci lega direttamente al tema della campagna elettorale, che è proprio le ultime battute. Campagna elettorale in giro per l'Italia. Per finire in TV a Virus, il premier Matteo Renzi si reca prima allo stabilimento Fiat di Melfi, poi vola ad Olbia, rivendica il Jobs Act, il lavoro non si crea nei talk show e interviene sulla globalizzazione. Per anni ci hanno detto la globalizzazione sarà un problema, e invece è esattamente l'opposto. In un mondo che chiede bellezza, qualità e capacità, l'Italia ha tutto da guadagnare. Però bisogna avere il coraggio di provarci, di aprirsi, di smetterla con le pastoie burocratiche, di smetterla con le difficoltà e le lungaggini procedurali. Bisogna avere il coraggio di cambiare. Ma intanto la grana a Campania resta e gelo con il candidato PD Vincenzo De Luca, per il quale il premier aveva intenzione di cambiare la legge Severino. De Luca infatti rischia la decadenza perché condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Ma Renzi non ha nessuna intenzione di cambiare la legge, la linea di Palazzo Chigi è quella di aspettare la Corte Costituzionale. Altro capitolo scottante sono i nomi degli impresentabili nelle liste. La commissione antimafia presieduta da Rosi Bindi li rivelerà solo domani alle 13 in mezzo alle polemiche. Anche qui Boschi è convinta che nelle liste PD ci siano candidati al di sopra di ogni sospetto. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Crede nel recupero di Forza Italia Silvio Berlusconi, galvanizzato dalle tappe del suo tour elettorale. Non dobbiamo mollare, la gente ha capito di che pasta è fatta questa sinistra. Le parole del Cavaliere ai suoi collaboratori: Renzi è avvertito, non canti vittoria, ce la giochiamo fino alla fine. Per l'ex premier il risultato più probabile è 5-2 con la vittoria in Veneto e Campania, ma resta la speranza di spuntarla in Liguria, arrivando così sul 4-3. Se questo fosse il risultato, spiega Berlusconi, Renzi dovrebbe dimettersi come D'Alema nel 2000. Dal 1 giugno cambia tutto, dice intanto Salvini. Se avremo un voto chiaro e partecipato, Renzi va a casa, aggiunge il leader della Lega. Da Fratelli d'Italia Rampelli spiega: le elezioni regionali sono l'occasione per ridimensionare Renzi. E per ricordarci, bocciando il suo operato, che sul fronte dell'immigrazione, sul fronte della crisi economica, sul fronte dell'occupazione, sul fronte della sicurezza siamo decisamente peggio di prima. Polemica quindi tra la Poli Bortone, candidata di Forza Italia in Puglia, e Fratelli d'Italia sul futuro utilizzo delle simbolo di AN. Sempre in Puglia Fitto ribadisce: l'unico voto utile per Schittulli ai probabili ballottaggi nelle amministrative. Guarda invece il Movimento 5 Stelle: abbiamo ottime speranze di vittoria, dice Di Maio, mentre Grillo torna sul tema dei vitalizi e ricorda: lo Stato spende 236 milioni di euro l'anno. Scotto, Sel guarda infine al caso De Luca in Campania e commenta: Renzi eviti manovre ad personam. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia che riguarda Berlusconi, che secondo le motivazioni depositate dalla Cassazione a conferma del proscioglimento dell'ex cavaliere dall'accusa di prostituzione minorile e concussione aggravata, le motivazioni dicono di quel proscioglimento Berlusconi ignorava che Ruby fosse minorenne. Poi in questa relazione della Cassazione si parla anche di una utilitaristica amicizia di Emilio Fede, che non rivelò a Berlusconi la minore età della ragazza per timore che finissero le serate ad Arcore. Passiamo all'estero con la Grecia. La direttrice del Fondo Monetario Internazionale Lagarde avverte: l'uscita dall'euro è una possibilità per la Grecia perché l'accordo è ancora lontano. Sergio Nava, insomma, è una vicenda senza fine questa. Ciao Roberta. Beh, ciao. Diciamo che la confusione aumenta anziché diradarsi, anche perché poi in serata fonti del Fondo Monetario Internazionale hanno smentito l'interpretazione che sarebbe stata data alle parole della Lagarde. Hanno detto sostanzialmente non ha detto proprio questo in questi termini. Quello che sappiamo è che Tsipras ha avuto una teleconferenza con Angela Merkel e François Hollande oggi per continuare a parlare. Diciamo, se dovessimo riassumere la giornata, la riassumeremo come una giornata decisamente paradossale, perché un greco oggi ha vinto il concorso per una moneta commemorativa da 2 euro dei 30 anni della bandiera europea. Però la Grecia rischia di uscire dall'Eurozona tra un mese o anche prima, quindi l'essere paradossale di questa giornata lo vediamo riassunto nel fatto che i greci ormai dicono ce la facciamo a chiudere per un accordo entro fine mese, e fonti europee hanno detto no, entro domenica non si riuscirà sicuramente a chiudere nulla. Diciamo che c'è molta confusione, c'è sicuramente tanta tattica negoziale ancora, però c'è anche il timore che non ci sia più una vera e propria direzione in questi negoziati, cioè ci sia un po' un tutti contro tutti. L'FMI che chiede alla Grecia di puntare obiettivi di surplus di bilancio di medio termine comunque consistenti, però allora bisognerà toccare le pensioni, ovviamente Tsipras questo non lo vuole fare, l'Europa che prova a mediare, diciamo che la situazione appare tutto tranne che risolta, speriamo che il G7 dei ministri delle finanze che si apre questa sera a Dresda possa portare a qualche schiarimento ulteriore, però ormai è difficile fare affidamento su questi vertici. Grazie Sergio Nave, poi ci ritroveremo infinite volte a parlarne, ma adesso parliamo invece della Libia. C'è l'allarme dell'ONU perché dice che senza accordo in Libia, a proposito di accordi, vincerà l'ISIS. Lo dice l'inviato dell'ONU Bernardino Leon, secondo il quale con la crescita delle divisioni si rafforza l'ISIS, che è la vera minaccia ma che finirà per vincere se la guerra civile continuerà in Libia. Per chiudere, lo sport, col calcio femminile che sbarca su FIFA 2016, calcio femminile che quindi sbarca sui videogiochi con buona pace delle polemiche tutte italiane, abbiamo parlato nei giorni scorsi di quello che è successo nel calcio femminile. Chi acquisterà FIFA 2016 per la sua PlayStation e Xbox troverà infatti questa novità assoluta, le 12 squadre con le più famose calciatrici al mondo. Per il Giro d'Italia invece il belga Gilbert ha vinto per distacco la 18esima tappa del Giro e Contador consolida la maglia rosa. Direi a questo punto di aggiornare chi sta viaggiando. Vedo già i vostri messaggi al 349-238-6666, gli altri sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice qualcuno: non sono nomadi, i nomadi per definizione si spostano, sono rom stazionari che vivono di furti per i quali i cittadini onesti italiani pagano pure più tasse. Affronteremo poi questo argomento a proposito dell'incidente che è successo a Roma, ma dopo. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vabbè, leggiamo anche questa battuta spiritosa di Fabrizio da Pesaro, che dice: quando ho letto le motivazioni della Cassazione per il proscioglimento di Berlusconi, che ignorava, secondo le motivazioni, la minore età di Ruby, dice Fabrizio da Pesaro, ignorava che fosse minorenne, ma era certo che fosse la nipote di Mubarak. Via, sorridiamo un po'. E poi Ulisse invece dice: Renzi nel giorno dell'assemblea di Confindustria, va da chi è uscito da Confindustria, direi assenza simbolica. Tra poco ne parleremo anche di questo, un'osservazione effettivamente in parte pertinente. Comunque direi di ricordare quali sono le notizie più importanti, visto che non tutti sono puntuali, non tutti accendono puntualmente alle 21 quando inizia Effetto Notte, però se avete acceso in questo momento, ecco le notizie in primo piano di oggi. Renzi a Melfi, per l'appunto, asse con Marchionne, il lavoro non si fa alla TV ma si fa nelle fabbriche, Mattarella, il presidente, chiede di investire e di innovare, e Squinzi, presidente di Confindustria, afferma qualcosa si muove. La corruzione, lo scandalo FIFA spacca il mondo del calcio, scontro tra Blatter e Platini, la UEFA indica di votare il principe Ali per le presidenziali, domani si dovrebbe rinnovare la presidenza, Putin difende il numero uno della FIFA e dice sono soltanto manovre americane. L'incognita Severino, della legge Severino sulle regionali, ma De Luca, il candidato in campagna, dice non sarò sospeso domani, tra l'altro ci sarà pubblicata la lista degli impresentabili da parte della commissione parlamentare antimafia. Due ragazzini, due minorenni in fuga dopo l'incidente a Roma, prese alla 17enne che era con loro, polemica sulla sicurezza, Salvini dice distruggiamo i campi rom. E poi ne abbiamo appena parlato della Grecia con Lagarde, che dice non escluso che ci sia un Grexit, cioè un'uscita della Grecia dall'euro, ma insomma sentivamo che la situazione è piuttosto confusa al momento. Rissa in Campidoglio fra capigruppo, ferite e accuse, volano sedie, esponenti Sele, lista Marchini in ospedale. Intanto è molto animata la politica anche a livello territoriale e regionale. Poi addio di Benitez al Napoli, il Milan spera intanto in Ancelotti. Adesso parliamo con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Ciao e buonasera a tutti. Dell'assemblea annuale di Confindustria che ha scelto come ambientazione l'Expo di Milano. Squinzi infatti ha detto il simbolo più bello di una nuova stagione, poi quando ha chiuso il suo discorso ha detto viva l'Expo e viva l'Italia, qualcuno ha detto in tono risorgimentale quasi, Alberto. E poi a proposito del governo ha detto non ho lamentele, richieste particolari, chiedo semplicemente di non smarrire la determinazione. Sentiamo l'elenco delle riforme positive che fa Squinzi. Qualcosa e non poco si muove e sta cambiando. Le riforme avviate e alcune misure di politica economica adottate testimoniano del lavoro svolto dal governo e lasciatemi orgogliosamente dire sono una cifra importante anche dell'impegno di Confindustria in favore delle imprese. La dimensione degli interventi avviati ne testimonia meglio il valore. 40 miliardi di soldi nostri che la pubblica amministrazione ci ha finalmente pagato, anche se il meccanismo non è certo a regime. 5,6 miliardi di riduzione dell'IRAP. 2,6 miliardi di abbattimento degli oneri sociali nel 2015. La moratoria sui debiti bancari che da sola vale una finanziaria. Poi ci sono il decreto Poletti e il Jobs Act, che finalmente, dopo anni, si allineano ai nostri competitori europei in materia di lavoro. La delega fiscale, che scrive le regole di un fisco diverso, anche se la pressione fiscale resta a livelli intollerabili per cittadini ed imprese. Il vero ostacolo a nuovi investimenti e alla crescita duratura. L'alternanza scuola-lavoro, il credito d'imposta sulla ricerca, il patent box e l'impegno sull'internazionalizzazione. Quindi mi pare che abbia fatto un lungo elenco positivo, qualcosa si muove, mi pare abbastanza dal punto di vista di Squinzi, Alberto. Beh sì, questa parte che hai scelto è quella dove il Presidente di Confindustria elenca i buoni risultati ottenuti dal governo. Poi parla anche della manina. Su sollecitazione anche della Confindustria degli imprenditori, non tutto è perfetto, ma insomma molte cose vanno nella direzione giusta. Poi c'è tutta una parte della relazione dove effettivamente ci sono abbondanti critiche a un atteggiamento anche generale che è contro la cultura d'impresa, che spesso nelle burocrazie crea ostacoli anche normativi, magari anche a dispetto degli stessi politici. A volte viene fatto anche alla chetichella da parte di una certa burocrazia ministeriale di mettere alcune clausole, alcune codicilli che in un primo tempo non erano stati negoziati. Insomma, questa è la parte che invece non va bene, che sicuramente deve essere modificata. Ma l'importante, lo dicevi anche tu, questa ambientazione all'Expo è un segnale non solo di cornice di location, diciamo così, ma è un modo per sottolineare come forse ci stiamo mettendo alle spalle una stagione di depressiva, sostanzialmente di sfiducia, e invece scegliere l'Expo con l'allegria e la fiducia che si vede, si sente camminando per quei viali, una voglia di futuro, una voglia di risolvere i problemi addirittura del mondo, insomma è un modo intelligente e positivo di guardare al domani, e questo sicuramente è stato travasato anche in alcuni contenuti della relazione. E adesso sentiamo invece il passaggio dove dice che bisogna mettere ordine nella contrattazione. Abbiamo fatto un importante accordo sulla rappresentanza, ora serve mettere ordine nelle regole della contrattazione e accompagnare la stagione dei rinnovi che è alle porte. Dobbiamo recuperare competitività e la contrattazione collettiva deve sostenere gli sforzi che si compiono in questa direzione. I legami fra dinamica dei salari e miglioramento della produttività devono essere resi più forti e stringenti. In molti casi le imprese e i lavoratori condividono già a livello aziendale, attraverso i premi di risultato, i miglioramenti raggiunti. Quindi su questa storia della contrattazione, che è la più delicata, perché poi si sono stretti la mano con Susanna Camusso alla fine del discorso, chi era testimone ha detto che si sono salutati con cordialità, però diciamo su questo aspetto c'è sempre tensione, no? Sì, c'è una strana tensione, nel senso che i sindacati avrebbero fatto bene tutti a cogliere l'importante apertura che viene dal messaggio del Presidente Squinzi oggi, e sicuramente Cisewil l'hanno fatto a caldo e con evidenti accenni di consenso, mentre la CGIL effettivamente in una dichiarazione ha detto che il tema non è la riduzione dei salari. Ma sentiamolo, scusami se ti interrompo Alberto, ce l'ho proprio questo passaggio, sentiamo Susanna Camusso. Che Confindustria abbia un'opinione diversa sul Job Act non mi pare una notizia, la cosa che invece preoccupa è che in una relazione fondata sull'innovazione si proponga in realtà la ricetta più antica del mondo, e cioè quella della riduzione dei salari. Riduzione dei salari? No, assolutamente no, anzi l'aumento dei salari, devo dire, cioè un modo intelligente e moderno di ancorarli alla produttività. È un vecchio sogno delle relazioni industriali, fin dal famoso accordo della concertazione del 93 propiziato dal governo Ciampi, si parlava appunto di distinguere i due livelli contrattuali, il contratto nazionale con una determinata funzione il contratto aziendale dove venivano negoziati i piani di risultato legati alla produttività. Poi il corso delle vicende ha condizionato le dinamiche salariali e adesso siamo a un punto di svolta importante, perché seguendo le vecchie regole dei contratti nazionali, essendo in un periodo di deflazione, teoricamente i lavoratori dovrebbero restituire una parte degli aumenti che hanno avuto perché erano stati concordati su un'aspettativa di inflazione in aumento, invece è in calo. E dall'altra è il momento fondamentale per arrivare a mettere insieme uno strumentario moderno per misurare la produttività, che è poi la torta che si allarga della ricchezza che si può fare solo in azienda, e distribuirla tra quanti concorrono a crearla, cioè i lavoratori e l'impresa naturalmente. Questo è un modo moderno di fare negoziati contrattuali. È molto importante che Squinzi abbia detto che nel contratto nazionale di lavoro c'è ancora un ruolo di cornice per definire le regole sulla base dei quali poi negoziare in azienda il salario effettivo. Ci sono tendenze ben più radicali che portano addirittura a scardinare tutto il meccanismo, a evitare, abbandonare il contesto del contratto nazionale, negoziare tutto in azienda o addirittura decidere unilateralmente tutto in azienda. È molto importante invece che Squinzi abbia mantenuto nervi saldi e testa fredda, diciamo così, lasciando aperto un importante ruolo alla contrattazione, al ruolo delle parti sociali, che ha rivendicato, tra l'altro ha detto che i corpi intermedi della società hanno un forte valore nella coesione sociale, nell'azione di modernizzazione di un paese, e questo va palesemente in contraddizione con l'ideologia imperante, diciamo così, della cosiddetta disintermediazione sociale, che vorrebbe rottamare appunto imprese e sindacati, o meglio l'associazionismo di imprese e sindacati, dopo aver teorizzato la rottamazione della politica. C'è qualcuno che sta parlando, è Virus su Rai 2, vediamo se parla ancora. Io, allora, purtroppo la situazione invece non è tale. Mi faceva una domanda prima. Va bene, pensavo di dover già partendo, appena seduto parlava da solo. 93 faceva l'imprenditore, 94 ha iniziato a far politica, fece quella cosa straordinaria di vincere le elezioni contro la gioiosa macchina da guerra, si aspettava dopo 20 anni di ritornare in uno studio televisivo per l'ennesima campagna elettorale, per fare una nuova campagna elettorale appunto? Sono passati un po' di anni. Davvero non mi sarei mai aspettato di dover restare dentro un settore come la politica per così tanti anni. Io sono un imprenditore, quello è il mio mestiere, la mia professione, che mi è sempre piaciuta molto e che mi ha dato molte soddisfazioni. Però quando nel 94 io decisi di, come si dice, scendere in campo, lo feci perché avvertì dentro di me una specie di dovere, un senso di responsabilità, che dopo che avevo tentato di mettere insieme quei politici che ancora erano in circolazione, di quei 5 partiti che mani pulite avevano invece estromesso dalla politica, vidi allora che l'unica possibilità era che si formasse un nuovo partito e che fossi io a guidarlo. Sono passati anni. Che arrivi al presente, ancora un momento di pazienza. Ci portò in appena 2 mesi al governo del paese. Poi le cose si sono succedute via via, c'è stata un'alternanza tra noi, la sinistra, eccetera. Oggi ancora la sinistra ha preso il sopravvento sul centrodestra e le cose che fa la sinistra, i provvedimenti che sono messi in campo da questo governo preoccupano molti. La sinistra di oggi è diversa rispetto alla sinistra di Occhetto, certamente, Presidente. Allora c'era una sinistra fortemente ideologicizzata, ancora molto legato a quella che era l'ideologia, il comunismo, che io ho sempre considerato l'ideologia più cinica, più disumana della storia dell'uomo. Oggi abbiamo di fronte una sinistra diversa, ma per la sua cultura e la sua tradizione è una sinistra che non sa applicare all'economia quelle ricette che sole possono provocare lo sviluppo. Alberto Orioli, vuoi commentare quest'ultimo passaggio? Poi Renzi, tra l'altro, oggi era Melfi da Marchionne, per cui è una sinistra effettivamente diversa da quella del passato di Occhetto, che si diceva oggi, a quella di Renzi. Beh, diciamo la verità, il problema di una campagna elettorale adesso per il Cavaliere è che non trova più le argomentazioni che aveva allora, perché una gran parte del ruolo della destra lo sta svolgendo il governo di sinistra di Renzi. Tutta la partita riformista è rimasta congelata per almeno 20 anni e devo dire la verità, quanto a velocità il nostro Premier non ha niente da farsi insegnare, ha fatto molte cose che effettivamente il centrodestra, anche quando ha governato, ha detto che avrebbe voluto fare, ma non è mai riuscito a fare, obiettivamente. Sentiamo proprio brevissimamente il passaggio di Renzi a Melfi, poi ci fai un commento breve, che siamo di corsa a questo punto, quasi in chiusura, Alberto? Sì. Oggi abbiamo visto dei volti, degli occhi, delle storie di donne e di uomini, alcuni molto coraggiosi. Uno ha detto alle Fiorentina davanti a Emma, quindi un ganzo totale, spero che gli dia un aumento. Ha avuto coraggio, ma anche delle storie di donne e uomini che io spero, anche grazie al Jobs Act, vedranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi contratti di lavoro sempre più solidi e più stabili. Quindi in un minuto, insomma, non è facile, Alberto Rioli, allora questo Renzi, questo rappresentante del centrosinistra che va a Melfi, nello stabilimento della Fiat, diceva un ascoltatore, è simbolico che non sia da Confindustria, ma da chi è uscito da Confindustria? Ma insomma, non starei troppo a enfatizzare il cerimoniale. D'altro canto Renzi mi ha dato una lettera di grande cordialità ieri al presidente Squinzi, dove ha spiegato che effettivamente la cosa era stata calendarizzata da molto tempo, poi se uno ci vuole fare politica sopra lo può fare. L'importante è che effettivamente è il segno che qualcosa si sta scongelando, come è stato detto oggi all'Expo dal presidente Squinzi, e la ripresa comincia a intravedersi. Un settore come l'auto sta facendo faville, effettivamente, in una situazione di grande spoiler, sta facendo assunzioni, l'importante è quello. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi. Buon lavoro, buona chiusura del giornale. Qui invece devo chiudere questa prima parte, questa seconda parte, diciamo, di Effetto Notte. Voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, inutile, ve lo dico, sempre lì, e poi ci sono i messaggi al 349-238-6666. Torniamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ringrazio il più bel messaggio di questa sera, non so chi l'ha scritto, non c'è la firma, ma ha vinto la medaglia d'oro di cioccolato per il più bel messaggio di questa sera. Poi invece vorrei leggere questo messaggio di Marco 89, piuttosto giovane, dice: i nostri genitori sono più ricchi, percepiscono pensioni record, sono loro che dovrebbero lasciare qualcosa a noi che non riusciamo a comprare una casa, fatichiamo a mettere qualcosa da parte, quando saremo vecchi moriremo di fame insieme ai nostri figli. Certo, diciamo uno scenario funesto, ma chissà, così, non così inventato. Ma e poi di nuovo si torna sull'incidente di cui tra poco parleremo. Enrico invece sulle motivazioni della Cassazione per il proscioglimento di Berlusconi nei confronti di Rubi, che non sapeva, ignorava che fosse minorenne, dice: dal codice penale il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, quindi che cavolo, diciamo, di giustificazione sarebbe quella di Berlusconi? Non è ammissibile, dice Enrico, ma se lo dice la Cassazione, ci affidiamo alla Cassazione. Dopodiché vi ricordo le notizie più importanti della giornata. Lo scandalo FIFA, Blatter sotto assedio, dice: non posso controllare tutto. Platini gli chiede di dimettersi, ma Putin lo difende. Grave incidente a Roma, ne parleremo tra pochissimo. L'assemblea di Confindustria, ne abbiamo appena trattato. Squinzi dice: qualcosa si muove, ma chiede al governo di non perdere la determinazione. Renzi e la Fiat di Melfi, incontra Marchionne e gli operai e dichiara: il lavoro non si difende nei talk, ma nelle fabbriche. Grecia, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Lagarde, avverte: l'uscita dall'euro è una possibilità, l'accordo è lontano, ma si continuano i negoziati. Libia, l'allarme dell'ONU: senza accordo vincerà l'ISIS. Per lo sport, Giro d'Italia, il francese Gilbert fa il bis a Verbania, la maglia rosa Contador consolida il primato, il calcio femminile sbarca sul videogioco FIFA 2016. Quindi dicevamo di questo gravissimo incidente di Roma con pirati della strada, che nella serata di ieri, ve ne avevo parlato quando era arrivata la notizia, fuggendo a gran velocità dall'alta della polizia, hanno investito e ucciso una donna di 44 anni, una golf filippina, che lascia tre ragazzi, madre di tre ragazzi, 8 i feriti, di cui 4 gravi. Nel pomeriggio c'è stata una fiaccolata a Roma, il Campidoglio ha fatto sapere che pagherà i funerali. Nel frattempo sono stati identificati 2 fuggiaschi che erano a bordo di questa lancia libra. Uno dei 2 sarebbe minorenne, come la 17enne Rom arrestata subito dopo l'incidente. I suoi familiari hanno fatto sapere: chiediamo perdono. E poi la terza persona a bordo dell'auto, a quanto trapela, potrebbe essere, prima si parla di un minorenne, poi di un maggiorenne, poi è arrivata la notizia, una dichiarazione del padre a un'intervista alla stampa.it stasera, che dice: ero io la guida, ero io padre di questo che state cercando, lui non c'era, io ero ubriaco. Insomma, non si capisce, sono troppe le versioni a questo punto. Ne parliamo con Giordano Biserni. Buonasera Giordano. Pronto? C'è qualche problema di collegamento? Sì, evidentemente sì. Lo richiamiamo, Giordano Biserni, che è presidente dell'ASAPS, Associazione Sostenitori Pulizia Stradale, ed esperto di sicurezza stradale. Allora, prima di tutto io direi di sentire che cosa ha detto il ministro dell'Interno su questo, su quanto è accaduto. Non avranno scampo, noi li prenderemo, quelli che sono scappati con la macchina, e non avranno assolutamente da beneficiare di nessuna indulgenza da parte dello Stato. Pagheranno caro e pagheranno fino in fondo per quello che hanno fatto. Dopodiché sapete che si discute da tempo del reato di omicidio stradale, tra poco sentiremo Alfano su questo. C'è Giordano Biserni, rieccoci, intanto gli scherzi dei telefoni, eccoci qua. Biserni, allora ho fatto sentire Alfano che diceva pagheranno caro, pagheranno fino all'ultimo e così via. Per quanto riguarda, allora, intanto lei che idea si è fatto di questa vicenda, anche se appunto ci sono tanti tasselli ancora da ricomporre, no? Perché ci sono versioni contrastanti. Ma guardi, la vicenda si inquadra in quello che noi ormai consideriamo il fronte della violenza stradale, specie a Roma presenta punte di veramente, con episodi veramente significativi, importanti, anche drammatici. E diciamo che l'incidente ha avuto questo importante risalto, perché nasce da una fuga all'ALS che è diventata quasi una prassi, voglio sottolinearlo, che viene sottolineato spessissimo dagli agenti. E poi perché è colpito 7-8 persone, ma voglio dire, la violenza stradale è quotidiana, diciamo, è costante, purtroppo i dati non confortano, soprattutto sul versante proprio della pirateria stradale, cioè paradossalmente mentre gli incidenti hanno una tendenza, per fortuna positiva, tendono a diminuire, la pirateria stradale, cioè darsi alla fuga dopo aver commesso un reato stradale, poi vedremo questa questione delle pene, che dice il ministro, che strada prenderà, perché c'è molto da discutere su questo, sta invece è un fenomeno che sta espandendosi, probabilmente perché si è capito provocatoriamente che sulla strada il conto non si paga, onestamente, questa è la realtà dei fatti. Cioè, la media per chi uccide sulla strada, si dà la fuga anche sotto l'effetto di altri stupefacenti, purtroppo, perché si invoca l'omicidio stradale, la media è di 2 anni e 8 mesi la condanna scritta sulla carta, e spesso volentieri rimane tale. Stavolta si è partiti con l'accelerata immediata da parte della magistratura, che condividiamo, col tentativo, che secondo noi è un arrampicamento sugli specchi molto difficoltoso, dell'omicidio volontario. Lo vedremo. Voglio ricordarvi, lei ricorderà Iris Vedi, no? Come è andata la questione dell'albanese che fece 30 km contro mano, uccise 4 ragazzi francesi. Primo grado, 21 anni, omicidio volontario. In appello ne chiedono 13, niente di piombo, non 21, omicidio volontario, poi arriva la Cassazione e dice no, rifatto il processo, non si può indicare il dolo eventuale in una condizione di questo tipo, eccetera. Quindi vedremo quello che sarà. Però il senso dell'impunità sulla strada per il momento regna sovrano, e questi signori lo sanno bene. Biserni, sentiamo anche sempre Alfano, ministro dell'Interno, cosa ha detto a proposito del percorso del disegno di legge sull'omicidio stradale. Noi stiamo mantenendo il nostro impegno sull'omicidio stradale. Ha già superato il primo passaggio in commissione al Senato, l'omicidio stradale sta diventando realtà e l'ergastolo della patente lo abbiamo quasi raggiunto come obiettivo, perché è previsto un massimo di 30 anni di sospensione della patente. Ecco, questo è il modo per reagire al comportamento criminale di chi guida in certe condizioni. È il motivo per cui noi abbiamo sempre detto che l'omicidio stradale è una nostra priorità, e per cui l'impegno che abbiamo assunto si sta realizzando. Si sta realizzando, dice Alfano Biserni. Per la ragazza, l'unica che è in mano della polizia, questa minorenne di 17 anni, che è accusata di concorso in omicidio volontario, lesioni gravissime e omissione di soccorso. Dice un ascoltatore, spero che le diano il massimo previsto, si può fare per direttissima, dice Raffaele da Pistoia. Ma come mai lei, che non era alla guida, quasi certamente viene accusata di omicidio, concorso in omicidio volontario, lesioni gravissime, omissione di soccorso? L'omissione di soccorso, probabilmente perché si dà in questo caso una responsabilità alla ragazza, ma ripeto, è una minorenne, se dovesse essere delle scommesse aperte su questo capo d'accusa, io onestamente non scommetterei, nel senso che la ragazza probabilmente verrà chiamata in causa perché probabilmente a fianco del conducente, perché non ha impedito che si fermasse, quindi il concorso anche nella missione di soccorso. Ma conosciamo la trafila, si parte in questo modo, poi si arriva in tutt'altro modo, soprattutto perché poi tra l'altro si tratterà probabilmente forse anche di minorenni. sia il ministro, sappiamo benissimo che il ministro dell'interno è favorevole, e almeno negli ultimi tempi si è dichiarato tale, ci fa piacere. Un primo passo, un primo passettino, diciamo, perché questo provvedimento è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato, ora deve andare in aula, tra l'altro con aspetti che vanno un pochino guardati con attenzione, secondo l'ASAS, lo faremo, l'abbiamo fatto presente, poi deve andare alla Camera, quindi il percorso non è così breve, mi creda, guardi, mi permetto di dire questo, visto che sono uno dei promotori della raccolta delle firme insieme all'Associazione Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni di Firenze, dal 2011, il percorso è stato molto accidentato, cioè molta gente, molti settori della giustizia, voglio dire anche del mondo delle leggi, erano e sono contrari a questo provvedimento. È che la forza dell'opinione pubblica, la sequela di questi episodi, l'impunità ormai generalizzata per queste situazioni sta spingendo in maniera, su questo veramente veramente molto forte. Giordano Biseni, speriamo di non dover riassistere a un caso come questo per ritornare di nuovo a parlare di omicidio stradale quando ancora il disegno di legge non è andato in porto. Intanto la ringrazio e ci salutiamo. Grazie. Buonasera, Biseni. Grazie a lei. Grazie. Viabilità. Monge, alimenti naturali per cani e gatti con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Queste le più importanti, lo scandalo FIFA con Blatter sotto assedio, gli chiedono di dimettersi ma lui non demorde, il grave incidente a Roma di cui abbiamo appena parlato e l'assemblea di Confindustria che si è svolta all'Expo e Squinzi che ha detto qualcosa si muove. Europa 24. È stato presentato il programma europeo Skills for Jobs 2015-2016, una campagna di comunicazione iniziata nel 2014 e ora rinnovata per gli anni 2015-2016 per promuovere le competenze digitali in Europa e aumentare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali in questo campo. Sentiamo allora Cristiano Radaelli, presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Informatiche, Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo, al microfono di Anna Marino. È una campagna europea di sensibilizzazione sull'importanza delle competenze digitali, al quale partecipano sia rappresentanze istituzionali come ad esempio il MIUR, la Presidenza del Consiglio, ma anche tutta una serie di aziende che collaborano per diffondere le competenze digitali con iniziative verso i giovani. Quindi proprio un'attività per rendere consapevoli i giovani in particolare dell'importanza delle competenze digitali. In concreto che cosa si è deciso di fare per promuovere questo obiettivo? Ci sono una serie di iniziative portate avanti dai partner che permettono con il coinvolgimento di scuole, di start-up, di eventi anche via web, quindi di iniziative di insegnamento della capacità di programmare via web, gratuite, fornito gratuitamente dai partner ai giovani che sono interessati di partecipare o alle scuole interessate di iscriversi e di permettere di ricevere questi insegnamenti in modo gratuito. Quanto investe l'Europa in questa campagna? L'investimento dell'Europa è limitato perché in questa attività specifica si tratta soltanto di rendere consapevoli di questa importanza dell'importanza del digitale. Gli investimenti poi sono in realtà fatti dalle società, dai partner che collaborano e i quali invece sicuramente investono, ma a questo punto entriamo nei valori che le varie imprese dedicano a questa attività. Quello che mi piace sottolineare è che come Anitec ha fatto questo coordinamento per l'Italia anche nel 2014, l'attività svolta dalle imprese che operano in Italia con il coordinamento di Anitec e con la collaborazione di diversi ministeri, tra cui appunto il MIUR e la Presidenza del Consiglio, ha portato l'attività fatta in Italia ad essere la migliore, aggiudicata come quella migliore per questo tipo di istruzione e di attività a livello europeo. Raccomanderei il collegamento al sito skillsforjob.it dove ci sono tutti i link anche alle attività specifiche dei partner. Quante aziende sono coinvolte? Tra aziende, università e incubatori oltre 50. Se guardiamo negli ultimi 3 anni le piccole e medie società che hanno fatto investimenti nel digitale hanno avuto una crescita di fatturato e di utili superiore del 15% a chi non l'ha fatto. Questo ha portato a nuovi posti di lavoro e nuove competenze. C'è già oggi un numero di posti di lavoro che va fino a 500.000 in Europa non coperti per mancanza di competenze digitali, che può arrivare a oltre 1 milione nel 2020. Quindi è per questo motivo che è importantissimo che i giovani crescano con questa consapevolezza, che sviluppino la capacità di agire sul digitale e di programmare, perché questo permette di dare una maggiore possibilità di trovare lavoro, ma anche permette di sviluppare in Italia, nel nostro paese, quindi aziende più competitive, perché se non agiamo in questo modo non riusciamo ad avere aziende competitive. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus. Sullo scandalo adesso che ha investito la FIFA, l'organo che governa il calcio mondiale, con questa inchiesta dell'FBI che ha scatenato una bufera, vari dirigenti di altissimo livello della FIFA sono stati arrestati con capi d'accusa molto gravi dall'associazione delinquere, la corruzione, avrebbero intascato tangenti per 100 milioni di dollari dagli anni 90 a oggi. Inamovibile il presidente da 17 anni, Blatter. Platini gli ha chiesto le dimissioni, Platini presidente dell'UEFA, Blatter non ne vuole sapere, domani si deve eleggere il nuovo presidente, probabilmente potrebbe essere lui. Pippo Russo, buonasera. Buonasera a voi gli ascoltatori. Sociologo, giornalista, autore di Gol di rapina, il lato oscuro del calcio globale, proprio globale questo lato oscuro. A questo punto Blatter che farà domani? Si deve eleggere il nuovo presidente, da 17 anni c'è lui, ha un largo consenso purtroppo, anche se è vero che Platini propone all'UEFA, all'Europa, anche da vecchio ha detto che ci sta, di eleggere il principe Ali bin al-Hussein di Giordania, ma già qui si parla quasi di un imperatore, non è che c'è una tentazione monarchica, che cosa c'entra un principe poi, non lo so, a capo della... Questo è un vecchio vizio del mondo dello sport, non soltanto del calcio, di avere un livello dirigenziale internazionale costituito da teste coronate, da nobili o comunque da personaggi che detengono il potere per ragioni ascrittive. Per quanto riguarda quello che accadrà domani, purtroppo, a dispetto di tutto ciò che è accaduto, temo che Blatter vada nella direzione della rielezione, perché questo dicono i numeri e questo dice un sistema di potere fondato sull'assegnazione di pari dignità di voto alle grandi federazioni di paesi da centinaia di milioni di abitanti, come alle federazioni che rappresentano piccole isole da qualche decina di migliaia di abitanti, nelle quali probabilmente ci sono più sportelli bancari che tesserati che giocano a calcio. Pippo Russo, forse allora a questo punto ci si aggiorna domani. Putin naturalmente ha i suoi interessi anche a difendere Blatter, evidentemente, perché c'è l'assegnazione dei mondiali 2018. Ma è l'interesse del mondo del calcio e del sistema di potere costituito attorno a Blatter di rieleggere questo personaggio. Il calcio in questo momento è un sistema di potere feudale nel quale c'è un grande monarca che continua a regnare, ha regnato fino ad oggi distribuendo prebende e manomorte, e queste manomorte sono servite a feudatari per alimentare questo sistema di potere a loro volta personale e dare luogo a questo sistema di corruzione che conosciamo da anni e che man mano viene scoperto dalle diverse inchieste. La cosa costante è che Blatter continua a non essere sfiorato e a far finta di non essere mai stato coinvolto in queste situazioni. Pippo Russo, vediamo domani come finisce, già immaginiamo che finisca, ma ci risentiamo, d'accordo? Grazie, a domani.